Venga, e pronto, e da bien, e da bien, e da mano. Chiedo asilo. Caro K, facciamo un po' tipo tipo Ferretti e Broccoli. Ho detto di no. Allora, ultime notizie dal mondo dell'infantilismo. La fonte è autorevole, si tratta di panorama.it, che dice: sempre più indistinto e confuso il confine tra età infantile ed età adulta. I pediatri riuniti a congresso lanciano l'allarme, molti genitori cercano nei figli quelli che non sono stati loro stessi da bambini. Capito, ecco, che novità. Molto autorevole. Sì, panorama.it. Sì, ma non è una notizia, è una tipica roba da settimanale. Vabbè, okay. È buona per tutte le stagioni. Sì, però resta il fatto che c'è stato il convegno della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, intitolato significativamente come giocare in vetrina, perché i bambini di oggi vengono presentati e vengono anche fatti comportare dai propri genitori come vengono dei piccoli fatti adulti. Comportare non già lo so, i tuoi genitori non t'hanno non insegnato a parlare, però qualcosa, capito? Panorama lancia l'allarme, qualcosa ha reso indistinto e confuso il confine tra l'età infantile e quella adulta e ha indebolito il guscio che proteggeva i bambini. Ecco. Le bambine usano il make-up a 7 anni, si ammalano di dermatite, non so se mi spiego. Vabbè, bambini che sembrano adulti, adulti che sembrano bambini, vecchi che sembrano giovani se li vedi di notte e che sembrano mostri se li vedi di giorno. Capito. Ma lo ripetiamo da 3 anni. Ma no, la cosa strana è che a un certo punto l'articolista lancia l'allarme, no? Ecco, e dice l'allarme: 15 bambini su 100 tra i 6 e i 14 anni sono obesi, e va bene, questo lo diciamo bene. Mentre il 30% di quelli sovrappeso soffre di malattie come ipertensione e colesterolo alto. Quindi, bravo, non siamo Escher, allora dico, non è vero come dice panorama.it che i genitori cercano di far vivere ai bambini le infanzie che loro non hanno mai avuto, anzi i genitori cercano di far avere direttamente ai loro figli l'età che hanno loro, mezza età, capito? Bambini, sovrappeso, col colesterolo alto, calvi, con l'ipertensione, la pancia, con l'alopecia, la pancia, voglio dire, che bambini sono? Che bambini che poi di notte vanno su internet e alimentano la pornografia online. Vabbè, bambini pieni di problemi di salute da adulti, cioè io mi chiedo, e i genitori? I genitori avranno la sesta malattia, sono gli orecchioni. La pertosse. Papà, perché sei lì fermo impalato? Ho l'ictus. Papà? L'ictus? Che cos'è? This is Eddie Carbonio with his brand new song Eddie Carbonio, by Eddie Carbonio. L'acqua che bevi, Eddie Carbonio. I funghi dei piedi, Eddie Carbonio. Il sole che brilla, Eddie Carbonio. Tua madre, tua figlia, il carbonchio. Chiedo asilo. Che palle il telefono. Pronto? Pronto? Manolito dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Sì, ciao Manolito. Come sta il signor Assange? E sta male. Sta male? E sta bien. No, sta bene. No, e sta male. Ah, sta bene, sta bene. Sta male. Manolito, senti, allora concentriamoci. Il signor Assange sta male? Rispondi sì o no? Sì. Ah, e cos'ha? Il signor Assange sta epurgando tutta la bagna cauda della scorsa settimana. Allora, la scorsa settimana ha mangiato la bagna cauda e lui la sta epurgando? Purgando tutta. Se ne ha mangiata tanta, ne avrà per un po', sai, devi un po' abituarti. Sì, signor, ecco. Però questo sta diventando un problema sanitario di profilassi e di sanificazione ambientale. Sanificazione ambientale, sì. Ho capito, Manolito, però io cosa c'entro? Cioè, voi siete a Londra e l'ambasciata dell'Ecuador, io sono a Milano. Possibile che per ogni problema dell'ambasciata di Assange tu debba chiamare me? Non lo so, cioè, cosa posso... No, signore, è il signor Assange che chiede asilo. Quiero asilo. Sì. E il ripete sempre la stessa frase, quiero asilo, chiedo asilo. Sì, ho capito, ma qui non c'è posto. Dì al signor Assange che chiami, non so, verso Natale, vediamo se qualche bambino per le vacanze poi dopo va a sciare, magari muore, e allora... lo chiedo, ecco, magari un posto salta fuori così, non so cosa dirti, Manolito. Allora, se muore il niño, un bambino, signora Sanche può prendere il posto del niño. Sì. Ok, però il problema è sanitario. Ambientale, e come lo risuelve? Come lo risuelvo? Il problema è sanitario di profilassi. Ma scusa, sanificazione ambientale, come lo risuelvo? Ma lo risuelvo nel senso di, com'è la parola? Lo risuelvo. No, cosa? Come gracias? Non c'è niente di cui ringraziare. Ho chiesto cosa significa lo resuelvo. Ah, grazie infinita che lo resuelve, Manolito, sarà riconosciente per sempre. Gracias, signor. Gracias. Gracias. Grazie, ma... Pronto? Manolito? Ma cos'è l'apostrofo o resuelvo? Dai, K, basta, non è venerdì, smettila con questa roba, questi ritmi africani, no, ma, arabi, ma viene da elettronici, là. Cosa sono? No! Ma cos'è? Ma Drago, no! Qui non si scherza, è il momento del Mardi Gras. Voilà, le Mardi Gras. Ma sempre sto macello, voilà, tutti i martedì. Ogni martedì che viene sulla la terra. La scorsa settimana l'abbiamo fatto di mercoledì, il Mardi Gras era le Mercredi Gras. Sì, non cambia molto, tutte le volte bisogna poi rimettere a posto, pulire, se no poi ma non pensare a pulire adesso, scusa. Adesso pensa a sporcare, anzi. Sporcare. Ma sì, versati addosso il bourbon, sprodolati mentre ti ingozzi di crawfish. E tu fai schifo, ma cosa dice? Voilà le Mardi Gras! A me, grazie, due dita di barbon, grazie, ecco, molto gentile, senza ghiaccio. Merci. Voilà le Mardi Gras! Merci, ma siamo sicuri che il Mardi Gras, con tutto questo retrogusto di peccato e di eccessi, vada bene come break settimanale in un asilo gestito dalle suore? Anche le suore, in segreto, adorano il Mardi Gras. Ma cosa crede? Ma Suor Dentona col bourbon? È una spugna. Ma piacevano i cuori duri. Ma poi, Drago, il Mardi Gras è una grande festa di carnevale, ai bambini il carnevale piace, e quindi si possono fare gli scherzi, ci si può travestire. Ho capito, ma qui di bambini non ce n'è nemmeno uno, io vedo solo ballerini creoli. Ma di nuovo questa storia dei ballerini creoli? Ma guarda quanti ce n'è. Guarda, ma ci sono due... anche le ballerine. Vabbè, uguale, no? Io intendo tutti i ballerini. Sì. Cosa c'è? No, c'è qualcosa che non mi stai dicendo, Drago. Non è che il clima della Louisiana è un po' queste paludi, un po' umido, indolente, sudi, bevi il bourbon. Cos'è? Però... È una metafora di qualche cosa? No, non devo dire niente, non devo fare niente, inutile come? Che insisti. Dai, Drago, è il Mardi Gras, fai il tuo coming out. Ma quale coming out? Ma smetti. Ma dillo che sei innamorato di Jérôme. Di chi? Jérôme. È il secondo ballerino da destra. Quello là, quello che balla lo sulla carta. Lo vedi? Come frega niente. K, piacerà a te, conosci il nome e tutto quanto. Comunque dai, basta, questi ci stanno distruggendo l'aula, K. Ma guarda quello. Ma scendi dalla cattedra, Jérôme. Andate tutti su Facebook per vedere il video di On the Road Again con K e Drago. Devono incamminarsi per la strada e non ci riescono mai. Mandate i vostri like, così meno poi andiamo da Zuckerberg e diventiamo ricchi. Grazie. Ciao. Mancano 7 giorni alla fine del mondo.